in primo piano. Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Gianfranco Fabi, eccezionalmente qui, una tantum questa volta. Buona domenica 10 marzo, iniziamo con la lettura dei giornali di oggi che sono dedicati essenzialmente a due argomenti con qualche cosa di contorno che però ruotano questi due argomenti. Il primo argomento è quello della crisi politica, la crisi politica con le prospettive di formazione di un governo, prospettive molto difficili e complesse in cui si intrecciano appunto nodi interni ai partiti, nodi istituzionali come la prossima rielezione del capo dello Stato. E il secondo argomento è anche qui un'elezione anche in questo caso un'elezione anticipata, è quella del nuovo pontefice. Da martedì si riuniscono i cardinali e tutti i giornali sono ricchi di indiscrezioni, ipotesi, possibilità, proposte sulla possibilità appunto che il nuovo pontefice venga eletto in maniera rapida. Questa è una dei primi auspici, e se verrà eletto in maniera rapida, molti giornali dicono che c'è la possibilità che torni un italiano. La speranza di un pontefice italiano è proprio il titolo del Corriere della Sera, ma il titolo maggiore che dedica il Corriere della Sera nella sua prima pagina è dedicata alla politica. Renzi lancia la sfida a Bersani, visita fiscale per Berlusconi, vogliono farmi finire come Craxi. Ecco, l'altro argomento legato ovviamente, strettamente intrecciato con quello della politica, è quello dei processi a Berlusconi, del fatto che Berlusconi abbia chiesto il legittimo impedimento essendo ricoverato San Raffaele per dei problemi agli occhi. Una visita fiscale decisa dai magistrati ha deciso che non c'era un problema di legittimo impedimento e che Berlusconi avrebbe potuto partecipare all'udienza, e su questo ovviamente i fronti sono molto contrapposti anche nei commenti dei giornali, come vedremo. Ma restiamo per adesso in questa prima parte alle prime pagine. Dicevo, Renzi lancia la sfida a Bersani sulla prima pagina del Corriere della Sera, che ha anche un editoriale di Ferruccio De Bortoli sul futuro presidente e una notizia sul presidente dell'ANCI dei comuni italiani: lo strappo dei sindaci, 9 miliardi alle aziende contro il patto di stabilità. La Repubblica punta invece sullo scontro tra le procure, tra la procura di Milano e Berlusconi. I medici sconfessano Berlusconi, non c'è impedimento al processo, no a scambi di poltrone con Grillo, è quello che dice invece Renzi. I medici sconfessano Silvio Berlusconi e dicono che non c'è legittimo impedimento alla partecipazione all'udienza del processo Mediaset. Questa è la Repubblica, che ha il solito editoriale domenicale di Eugenio Scalfari, il rebus che il Colle dovrà risolvere, un editoriale che in parte, come forse vedremo più tardi, è dedicato anche all'altra elezione, quella del pontefice, di cui c'è una fotografia sulla Repubblica degli operai che stanno lavorando per mettere il famoso comignolo sulla Cappella Sistina, da cui uscirà la fumata nera o la fumata bianca, e quindi sfida a due, conclave breve, e i cardinali contestano la curia. Pronto il comignolo della Sistina, è quello che dice la Repubblica. E poi ci sono anche legati al problema politico gli intrecci finanziari ed economici. Conti, l'allarme del tesoro, serve chiarezza sul governo, Grilli e il declassamento, faremo di tutto per evitare rischi sul paese. La Repubblica ha anche all'interno un dossier con lo scenario, gli economisti snobbano Fitch è l'agenzia di rating che nei giorni scorsi ha abbassato il rating, cioè il voto, la pagella, la stima sulla fiducia dell'Italia, e questi economisti, Rubini, Fitoussi, Recchi e Valli, dicono in fondo l'Italia non è al tappeto, anche se indubbiamente l'agenzia di rating ha le sue ragioni nell'aver dato il proprio giudizio. Voto drastico è il titolo del giornale. Giustizia da Aguzzini, barbari. Barbari è la parola che domina la prima pagina del giornale. C'è una vignetta di Forattini che ricorda Piazzale Loreto, delle drammatiche fasi di Piazzale Loreto, con Berlusconi appeso a testa in giù da parte di tenuta la corda da un magistrato. Il commento di Alessandro Sallusti è molto drastico, appunto drastico da una parte nel contestare e di criticare pesantemente gli intellettuali che ieri sulle pagine di Repubblica hanno chiesto a Bersani di fare di tutto per fare un governo appoggiato dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, ma è anche molto drastico e molto pesante Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, nei confronti appunto della vicenda Berlusconi, e dice: se ci sarà una nuova campagna elettorale, come è probabile, Berlusconi dovrà essere o morto o in galera, perché così hanno deciso, e non importa che nella sua ultima legislatura 161 parlamentari abbiano cambiato casacca per motivi più o meno nobili, in base a un diritto costituzionale non esiste vincolo di mandato. E qui Sallusti si riferisce ovviamente all'altra inchiesta in cui è implicato Berlusconi, che è la presunta presunto pagamento a De Gregorio per passare da un fronte all'altro nella scorsa legislatura e per far cadere il governo Prodi. Il Sole 24 Ore dedica il suo titolo principale a Fitch, con le dichiarazioni di Grilli ieri al vertice al forum di Cernobbio, del forum Ambrosetti di Cernobbio. Fitch non sorprende, ma pesa l'incognita politica. Imprenditori e economisti a Cernobbio puntare sulla produzione. Il ministro: il downgrade era atteso, ora fiducia nelle prossime aste. C'è un editoriale di commento a questa notizia di Fitch e delle dichiarazioni di Grilli, dichiarazioni da una parte che rassicurano, ma dall'altra che mettono in luce appunto le preoccupazioni. C'è un commento di Guido Gentili che dice: contro lo stallo facciamo rigirare il denaro. E Guido Gentili riprende la proposta lanciata proprio dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi da Luigi Guiso e Guido Tabellini, che hanno appunto chiesto che venissero accelerati i pagamenti che la pubblica amministrazione deve fare verso le imprese, i debiti appunto della pubblica amministrazione, attraverso dei meccanismi contabili, liquidandoli appunto molto rapidamente attraverso un'emissione ad hoc di debito pubblico, e attraverso questo si potrebbe rimettere in circolazione una certa massa di denaro capace appunto di ridare un po' di fiato, di ossigeno alle imprese. E Gentili appunto potrebbe, infatti, dice, si potrebbero scongelare 50 miliardi, dando una mano alle imprese e reinserendo nel circuito desertificato dell'economia liquidità significativa. E continua Gentili: il debito pubblico in rapporto al PIL crescerebbe del 3-6%, si chiede, possiamo permettercelo in Europa e sui mercati? Se la miccia con cui riaccendere la ripresa, la risposta è sì, perché i mercati e le agenzie di rating stanno guardando con sempre maggiore attenzione al problema della mancata crescita come variabile decisiva nelle loro valutazioni. Guido Gentile sul Sole 24 Ore, che nella sua prima pagina ha anche un editoriale di Bruno Forte: se l'eredità di Benedetto diventa agenda, e lo vedremo più tardi, che appunto si riferisce al conclave. E sul fronte invece politico, il titolo del Sole 24 Ore è: non c'è impedimento per Berlusconi in aula, il PDL insorge, ridicolo. Sempre sul Sole 24 Ore, il coraggio che Grillo non ha per cambiare del vero il paese, è un commento di Luigi Zingales. Andiamo avanti con le prime pagine dei giornali in questa prima parte della rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano: occhio, Berlusconi, ti hanno beccato. È il Fatto Quotidiano: la visita fiscale ordinata dalla Corte d'Appello di Milano incastra l'ex premier, può partecipare alle udienze. Per ritardare le sentenze si era fatto ricoverare a San Raffaele accusando una grave congiuntivite, e domani gli tocca di nuovo il processo Ruby. Sul Giorno: Silvio malato, anzi no, questo è il titolo principale, per il suo medico deve restare in ospedale, ma non si ferma il processo. Visita fiscale, lite su Berlusconi, è il titolo principale del Messaggero. Per Silvio il carcere si avvicina, dice il titolo principale di Libero. Soluzione finale: visita fiscale in ospedale, ecco perché Bersani preferisce un governo di mostri coi grillini all'intesa Salva Italia col PDL. L'apertura della Stampa invece è dedicata al conclave. Il conclave inizierà con un ballottaggio, più spazio per gli outsider. Scola e Scherer partono favoriti, e questa è una indicazione che hanno quasi tutti i quotidiani. Queste due candidature molto forti, il cardinale arcivescovo di Milano Angelo Scola e Scherer il brasiliano, che sarebbero appunto favoriti, si dividerebbero i consensi, però molti sottolineano che proprio questa divisione dei consensi tra le due parti potrebbe portare, se il conclave non sarà rapido, invece a una nuova candidatura di qualche outsider, ma anche questo lo vedremo tra poco. La croce dei cristiani è il titolo principale di Avvenire, che guarda più in là dei fatti di casa nostra o anche delle vicende contingenti del conclave, per cui che altro c'è una grande foto della Cappella Sistina, così l'elezione del successore di Benedetto, ma il titolo principale è dedicato appunto alla persecuzione e al martirio dei cristiani. Avvenire dice appunto: la croce dei cristiani, il gruppo islamista Ansarù rivendica l'esecuzione dei rapiti, tra cui l'italiano Trevisan, in risposta a un blitz delle forze di sicurezza per liberarli. Uccisi 7 ostaggi in Nigeria. E in Pakistan, caccia al blasfemo, la folla dà alle fiamme 175 casi. E ci dice Avvenire: resta il giallo sulla sorte dell'ingegnere veneto in mano agli estremisti di Ansarù. I terroristi in un video affermano di aver ucciso i prigionieri, le autorità non confermano. L'ennesimo assalto è andato in scena a Lahore, 3.000 islamici hanno devastato il ghetto di Joseph Colony, incendiate le abitazioni della minoranza religiosa, arrestato l'uomo accusato di aver ingiustamente offeso Maometto. E un altro elemento è quello dell'Egitto: Egitto senza pace, scontri e vittime per una sentenza, così come all'Egitto è dedicato il titolo principale del Manifesto. Giocano alla morte, in Egitto confermate le 21 condanne a morte per gli Ustra di Porto Said per la strage allo stadio, assolti i vertici della polizia. Il paese con il pallone nel sangue si spacca e la rivolta dilaga nello stretto e al Cairo, 3 morti, incendiata la sede della Federcalcio, stato di emergenza nel Sinai. Questa era la prima pagina del Manifesto. Ecco, si chiude qui la lettura delle prime pagine. Tra poco, dopo le notizie sul Tempo, vedremo qualche articolo di fondo e qualche commento. In primo piano. Rieccoci qua, buongiorno e buona domenica da Gianfranco Fabi. Vediamo adesso in questa seconda parte della rassegna stampa un po' i contenuti dei giornali, soprattutto in questo intreccio tra profano e sacro, tra i problemi politici italiani di formazione del nuovo governo e la settimana decisiva, che ci sarà sicuramente in questo caso decisiva, sul fronte del conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Iniziamo dal profano, dalla politica. L'editoriale del Corriere della Sera del direttore Ferruccio De Bortoli: il futuro presidente Napolitano resti almeno per un po'. E qui forse c'è qualche assonanza con quanto avvenuto in Vaticano: il presidente può essere eletto, De Bortoli si augura che venga rieletto Napolitano, poi spetterà a lui magari a un certo punto, data l'età, anche poter lasciare, se riuscirà a far superare al paese questa difficilissima situazione politica. E De Bortoli proprio accenna a questo fatto proprio all'inizio: nei prossimi giorni, afferma nel suo articolo, assisteremo con emozione alla fumata bianca dell'elezione del Papa, ma continueremo ad essere tristemente avvolti nelle nuvole nere della politica italiana. E allora l'ipotesi è quella che venga, che i partiti decidano di rieleggere Napolitano, nonostante che lui stesso nei giorni scorsi abbia affermato che non vede l'opportunità per una persona così anziana come lui, ha parlato proprio di carta di identità, di età anagrafica, non vede l'opportunità di una rielezione. Ma De Bortoli conclude il suo articolo: Napolitano, il cui prestigio internazionale è elevatissimo, potrebbe così concludere il suo tentativo di dare un governo al paese nella pienezza dei poteri, anche di quello di scioglimento delle Camere. Un nuovo capo dello Stato che, appena eletto, andasse a casa il Parlamento che lo ha votato, apparirebbe presto delegittimato. L'uscente no. Certo, l'età di Napolitano è avanzata, 87 anni. Un mandato a tempo non è possibile. Sarà il presidente rieletto a decidere quando verrà il momento, anche dopo pochi mesi, di dimettersi, lasciando a parlamentari e delegati l'onore di una scelta autorevole e più giovane, ma soprattutto non condizionata da altri convulsi passaggi istituzionali. Ecco, questa è l'ipotesi che pone in primo piano nel proprio editoriale il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Napolitano resti per traghettare il paese in questa difficile fase in cui, dopo le elezioni, non dimentichiamolo, si è parlato di ingovernabilità e quindi quindi di cercare una governabilità, di mettere insieme i cocci della politica, cercando di ridare appunto al paese una prospettiva di stabilità, ma soprattutto una politica capace di far riavviare la crescita economica. E Giovanni Sabatucci, sulla prima pagina del Messaggero, insiste sulla necessità di difendere l'immagine e la credibilità del paese. Sabatucci scrive: stupisce allora che in questa situazione di poco delicata il paese sia ancora costretto ad occuparsi delle grandi giudiziarie di Silvio Berlusconi, del suo interno contenzioso con le procure di mezza Italia, Milano e Napoli in testa. E colpisce che un tribunale milanese, per contrastare una presunta manovra dilatoria dell'ex presidente del Consiglio, abbia disposto una visita fiscale nell'ospedale in cui è ricoverato. Che l'imputato e i suoi avvocati ci abbiano abituati a un uso, per così dire, disinvolto dell'istituto del legittimo impedimento è un fatto difficilmente contestabile, afferma Sabatucci, ma è pure evidente quanto sia inedita la scena di un ex capo del governo e leader di Partito d'Italia in balia di un controllo ospedaliero per stabilire se partecipare o meno a un processo. Si dirà, conclude il suo articolo Giovanni Sabatucci sul Messaggero, che la giustizia deve fare comunque il suo corso, ma qui non parliamo di un problema di sostanza, bensì del pericolo di inasprire un clima già surriscaldato dalla decisione del PDL di promuovere fra due settimane un'inquietante manifestazione anti-magistrati. Parliamo infine dell'esigenza di non arricchire con un tocco surreale un'immagine del paese già compromessa per altri e più seri motivi. Siamo già, conclude Sabatucci, pesantemente inguaiati. E quindi queste vicende giudiziarie si intrecciano appunto con quelle politiche, ne va un po' della credibilità del paese, su cui si sofferma Giampaolo Pansa su Libero, il suo lungo commento su Grillo: Laerne, Lapo, Albertazzi, masochisti per Grillo, giornalisti, attori, imprenditori, tutti in coda per salire sul carro del comico, non capendo che senza un governo cadremo nel baratro, loro per primi, afferma Giampaolo Pansa. E leggiamo uno straccio di questo articolo: stiamo assistendo a una recita lugubre che può trascinarci nel baratro. Grillo dice no a qualsiasi governo espresso da qualsiasi partito e da qualunque coalizione. Il Napoleone stellare ha già dichiarato di puntare al 100% dei voti, un obiettivo che anche lui considera irreale ma utile come proclama per conquistare una massa sempre più imponente di ingenui. Il PD di Bersani dice no a qualsiasi alleanza con il PDL di Silvio Berlusconi, a sua volta il PDL del Cavaliere accusa i democratici di impuntature. Il termine è di Angelino Alfano, ma tutti sanno che Silvio Berlusconi spera in nuove elezioni, i suoi indovini gli assicurano che stavolta vincerà e tornerà a Palazzo Chigi da premier. E ancora Giampaolo Pansa: sembra la cattiva sceneggiatura di un mediocre film di fantapolitica genere catastrofico, dove qualunque tentativo di dialogo viene chiamato inciucio. Siamo diventati prigionieri di una parola dal suono quasi pornografico, la ripetiamo di continuo senza renderci conto che persino l'inciucio, un compromesso meschino e al ribasso, può servire quando non esiste altro santo da invocare. Oggi siamo in questa strettoia imposta da una realtà che non concede altre vie di scampo. Questo è Giampaolo Pansa su Libero, che come appunto detto chiede che la politica faccia una prova di realismo, che esca dai veti e dai blocchi contrapposti, e dice, afferma appunto che dato che la maggioranza 25 più 25 più 10 PDL, PD più Monti è chiaramente, potrebbe essere chiaramente in mano a questa grande coalizione, allora emarginare Grillo, secondo Giampaolo Pansa, è utile e necessario. Passiamo rapidamente sull'altro fronte, quello del Vaticano. Eugenio Scalfari, rebus che il Colle dovrà risolvere. Il territoriale tradizionale della domenica è dedicato alla politica, ma si conclude guardando al conclave. Domenica prossima, afferma Scalfari, il conclave sarà probabilmente già concluso e il nuovo Papa avrà già preso possesso del soglio petrino. Qui possiamo soltanto ricordare due verità già ampiamente esaminate nei giorni scorsi. La prima: le dimissioni di Benedetto XVI hanno testimoniato che il Papa non è il vicario di Cristo in terra, ma un uomo investito dall'altissima funzione di guidare una comunità di credenti che si estende su tutto il pianeta in convivenza con altre religioni o filosofie religiose. Apro la parentesi, non si vede perché non possa essere anche il vicario di Cristo in terra, ma andiamo avanti leggendo Scalfari. La seconda: Ratzinger ha constatato di non avere più le forze fisiche e mentali per rinnovare la Chiesa, come necessario è anche ricordato che il volto attuale della Chiesa è stato imbrattato e va dunque ricostruito dalle fondamenta. E allora si parla di rinnovamento e Scalfari conclude: il rinnovamento prevarrà e quindi potrà chiamarsi nuovo Papa Giovanni XXIV o Francesco, sarebbe il primo con questo nome, c'è già tra i papabili anche un cardinale cappuccino, Patrick O'Malley, che ha tutte le caratteristiche pastorali delle quali la Chiesa sembra avere urgente bisogno. Da non credente, afferma Eugenio Scalfari, interessato, però mi auguro che la scelta sia quella che sembra la più idonea a suscitare un vento di spiritualità necessario a migliorare la società e ciascuno di noi, credenti e non credenti. E qui si conclude Eugenio Scalfari, che abbraccia questa ipotesi del cappuccino O'Malley come nuovo Papa. Ma sappiamo che le ipotesi fatte da Scalfari, posso dire purtroppo, raramente hanno poi successo. Sul conclave si sofferma Avvenire con un articolo di Umberto Folena che parla dello Spirito Santo, di quello che veramente elegge poi il Santo Padre, il nuovo Santo Padre. Fate largo lo Spirito Santo, il primo, unico, autentico, grande elettore è lui, al conclave che si apre con la chiusura del portone della Sistina martedì prossimo. Stampa, TV e web possono esercitarsi quanto vogliono in elucubrazioni, deduzioni, manovre e pronostici su alcune eleganze meglio sorvolare, ma la verità indiscutibile è che le chiavi di San Pietro sono in mani sicure e collaudatissime, quelle dello Spirito. Però, in questa circostanza, come innumerevoli altre, lo Spirito Santo ha bisogno di collaborazione. Gli uomini, infatti, sono liberi di accoglierlo, svuotando felicemente se stessi delle proprie paure, speranze e ambizioni, per fargli spazio e consentirgli di agire, soffiando amore e sapienza nei cuori. In pratica, dice Folena, aiutati che il Ciel t'aiuta, ma e lo Spirito Santo soffia. Speriamo che questo soffio venga accolto e venga capito dagli uomini, che sono tutti uomini, riuniti in conclave. Grazie per questa seconda parte. Spazio al traffico, ci sentiamo tra pochi secondi. Rieccoci. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo appunto concluso la seconda parte leggendo un piccolo brano di Avvenire di Umberto Folena sullo Spirito Santo che agisce all'interno del conclave per indicare appunto ai cardinali chi scegliere tra di loro come nuovo Papa, come successore di Benedetto XVI. Vi avevo segnalato che anche il Sole 24 Ore ha un editoriale di Bruno Forte, se l'eredità di Benedetto diventa agenda, e interessante la conclusione di questo articolo dell'arcivescovo di Chieti Vasto. In un mondo sempre più globalizzato, afferma Bruno Forte, in cui le identità locali avvertono il rischio e la minaccia stessa della globalizzazione, il dialogo con le culture, in generale con il mondo contemporaneo, pare necessità prioritaria. Ci vorrà anche qui un nuovo slancio che faccia tesoro delle premesse poste a Benedetto XVI, ad esempio del dialogo con i non credenti e lontani, per costruire ponti di simpatia e di amicizia capaci di attrarre i cuori, di avviare dialoghi significativi e collaborazioni efficaci. 50 anni di apertura del Vaticano II richiamano alla memoria di tutti la bontà e la fiducia di Giovanni XXIII, al quale dovrà congiungersi una conoscenza profonda e articolata della complessità degli scenari del villaggio globale. La sorpresa che lo spirito invocato sul prossimo conclave riserva alla Chiesa dovrà offrire una risposta convincente anche a quest'ultimo. Ma non facile urgenza. Bruno Forte sul Sole 24 Ore, un Papa quindi che sia capace di capire e di, in fondo, di cavalcare la globalizzazione. L'articolo che accompagna questo commento di Bruno Forte e di Carlo Barroni: si va verso un conclave breve. Padre Lombardi, l'elezione del nuovo pontefice entro 2 e 3 giorni. Passiamo ad altri argomenti al di là di quelli strettamente politici. È interessante, vi segnalo un'analisi di Francesco Guerrera su La Stampa. Guerrera è caporedattore finanziario del Wall Street Journal a New York, che analizza come mai la borsa di Wall Street, la borsa americana, abbia fatto segnare record su record negli ultimi giorni, nonostante che l'economia continui ad essere fiacca, continui ad essere appunto un'economia che sì, quella americana cresce, ma non certo a grandi ritmi. Ben Bernanke, che è il capo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, scrive Francesco Guerrera, i suoi stanno facendo di tutto per rivitalizzare un'economia che era moribonda dopo la crisi. Le misure convenzionali, tenere tassi di interesse bassissimi, sono ormai quasi inutili. Con i politici latitanti ed incapaci di riformare il sistema fiscale, che significherebbe alzare le tasse o ridurre pensioni e sanità, gli economisti di Ben si sono messi a pompare soldi nell'economia. Ogni mese la Fed spende 85 miliardi di dollari per comprare i buoni del tesoro emessi dal governo. Il denaro passa da una parte di Washington all'altra. Ma il semplice fatto che la grande Fed sta comprando in massa ha depresso i tassi di interesse sul debito americano, spingendo gli investitori a cercare investimenti più lucrativi. Il mercato azionario è stato uno dei principali destinatari del denaro stampato da Bernanke. Fondi pensione, hedge fund e persino piccoli investitori hanno comprato azioni, non più turandosi il naso che per convinzione. Continua Francesco Guerrera sulla Stampa. Il mondo delle aziende gli ha aiutati, annunciando utili decenti e dimostrando che gli anni di austerità durante la crisi sono serviti a tagliare spese, ridurre debiti e scegliere strategie più sobrie della crescita a tutti i costi. Con bilanci che straripano di denaro, ma senza grandi idee di come investirli, molte società hanno deciso di dare soldi indietro agli azionisti. I dividendi e i riscatti di azioni sono a livelli record, un altro motivo per cui vale la pena di comprare le azioni, anche se l'economia è ancora giù di corda. E questi due fattori, i soldi della Fed e gli utili delle aziende, sono le due chiavi per capire il mistero dei mercati. Gli investitori sono come la moglie bella di un giovane signore anziano e ricco. Sono attratti dal mercato per i soldi, 85 miliardi al mese, 300 miliardi di dividendi all'anno, 117 miliardi di riscatti azionari al 2013, ma non c'è amore vero. E conclude Francesco Guerrera, per gli ottimisti questo è un buon segno. Immaginatevi, dico, come saliranno i mercati quando l'economia ricomincerà veramente a tirare. Per loro i robusti numeri sulla disoccupazione usciti venerdì sono il segno che la ripresa americana sta finalmente accelerando. Attenzione però all'altra faccia della medaglia: un mercato che ha raggiunto il record senza più tanta benzina nel serbatoio è un mercato fragilissimo. Basterà poco, un evento esterno, un lungo periodo di stabilità politica in Italia, per dire una, o dei dati non buoni per l'economia americana ed europea, per far correre gli investitori verso l'uscita di sicurezza. Buon viaggio verso l'isola che non c'è, conclude Francesco Guerrera sul Wall Street Journal. L'isola felice che non c'è, l'isola appunto in cui le borse crescono sempre, non c'è, ma bisogna comunque avere fiducia in un sistema economico che ha le potenzialità per crescere, e anche l'instabilità italiana speriamo possa essere superata. Vi segnalo un'intervista del presidente dell'ENI, del presidente Recchi, al Giorno, in cui dice: meno rigore, facciamo ripartire l'Italia. E commentando l'analisi di Fitch, Recchi dice: il declassamento non corrisponde ai fondamentali di solidità del paese, ma rischia di danneggiarli, perché da oggi il credito sarà più caro e l'emissione di bond italiani avrà tassi più elevati. Già oggi l'Italia soffre per effetto di questa percezione negativa, che crea una reale mancanza di fattori fondamentali, come per esempio avviene nel credito, dove registriamo un aumento del 7% dei depositi e un 17% in più delle sofferenze. Le persone non spendono, le aziende soffrono e così le banche sono in difficoltà e prestano ancora meno. Però i fondamentali del mondo, conclude Recchi, non sono così drammatici. Ovunque andiamo di fuori dell'Europa le economie crescono, e anche in Europa tutte le società che esportano stanno facendo bilanci record. Il mondo è come prima, è un mondo che cresce. Questo è il messaggio del presidente dell'ENI, Recchi, appunto intervistato dal Giorno. È una notizia da Repubblica, Giovannini, un'intervista a Giovannini, presidente dell'Istat, che annuncia l'arrivo del BES, il nuovo misuratore del benessere. È ci saranno appunto, al di là del PIL, un indicatore del benessere equo e sostenibile, che sarà composto da 12 indicatori, tra cui salute, istituzione, lavoro, paesaggio, patrimonio, politica e sicurezza. E afferma Giovannini: il paese è sfiduciato, più povero, inquinato e sfilacciato, ma pieno di risorse dimenticate e di ricerche e di ricchezze straordinarie. Quindi il presidente dell'Istat Giovannini, quello che ci segnala giorno per giorno i dati della crisi e della recessione. Comunque sottolinea anche che le ricchezze potenziali sono forti, ed è su queste ricchezze che in fondo ci si deve basare per cercare una nuova crescita. Un'ultima segnalazione la Repubblica: si è parlato molto di Napoli nei giorni scorsi, con la città della scienza che è bruciata probabilmente per un gesto doloso, e Henry De Luca, un articolo, non avrei voglia di leggerlo ma non abbiamo più il tempo. Henry De Luca ci parla di cartoline sopra la cena, di una città fondata sul vuoto, di una città comunque che ha molti punti forti che meritano di essere visti nel supplemento di Repubblica sulla domenica. Si conclude qui la nostra rassegna stampa. Buona domenica a tutti e buona Radio 24.